Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti da Teresa e benvenuti ad una nuova puntata di Van Loon, a cura del Caso S. Van Loon come Henrik Willem, noto storico e divulgatore olandese. Caso S come il gruppo di studentesse e studenti bolognesi che ha dato vita ad un progetto di comunicazione storica. Saranno loro ogni due settimane a parlarci proprio di storia, sottoponendoci di volta in volta approfondimenti e spunti di riflessione anche legati ad argomenti di attualità. Ciao a tutte e tutti da David e Piero. La sera del 27 giugno 1980, un aereo di linea di una compagnia privata, un DC-9 dell'Italia, durante il suo volo da Bologna a Palermo scompare dagli schermi radar di Ciampino, nei pressi dell'isola di Ustica. Nessun superstite, meno della metà degli 81 corpi viene ripescata, mentre il relitto del velivolo sarà recuperato solo 11 anni dopo. Come mai dopo 32 anni non sappiamo ancora cos'è successo veramente? Le indagini all'inizio considerarono il caso come disastro aereo, con accuse infondate sulla sicurezza degli aerei Italia, che portarono al suo fallimento. Ma nell'84 l'imputazione cambiò in strage. L'accusa era contro ignoti e le piste seguite non disponevano di alcuna testimonianza diretta. Ogni informazione che potesse portare all'istruttoria verso la conoscenza di fatti era sempre ottenuta con grande lentezza. Anche le ferite sui reperti furono discordanti. Le principali ipotesi riguardarono l'esplosione di una bomba, una collisione in volo, infine l'abbattimento da parte di un missile durante un'azione di guerra. Una guerra in tempo di pace? Ricordiamo che nel 1980 la scena politica internazionale era ancora caratterizzata dalla netta divisione tra la NATO e il Patto di Varsavia, con una Libia non allineata che ambiva alla bomba atomica. La fine di quell'epoca ha spesso comportato l'oblio su avvenimenti troppo scomodi e imbarazzanti da spiegare al di fuori della contrapposizione, rigida e gerarchica, della Guerra Fredda. Nell'88 i parenti delle vittime si riunirono in un'associazione, giocando un ruolo importante per evitare che anche sulla vicenda di Ustica calasse il sipario. La magistratura arrivò al punto di incriminare diversi alti ufficiali dell'aeronautica per falsa testimonianza e favoreggiamento, fino all'accusa di alto tradimento. Nessuno di loro tuttavia è stato condannato, ma anzi tutti assolti con formula piena. Non mancheranno però varie condanne prescritte o decadute, per modifica alla legge sull'abuso di ufficio, tra i militari dell'aeronautica. In seguito la NATO ha ammesso che diversi aerei militari si trovavano nella zona della strage, senza però fornire dati per identificarli. Di quella notte oggi rimane solo il relitto del DC-9, unico testimone muto emerso in quella strage. Anziché giacere abbandonato nell'hangar in cui era stato ricomposto, in attesa della demolizione, è stato recuperato ed oggi rappresenta l'elemento centrale di un museo per la memoria di Ustica, qui a Bologna. È significativo come questo luogo non riporti, come altri musei della memoria, fatti e testimonianze. Ci sono infatti un'infinità di carte giudiziarie, inchieste, perizie tecniche e qualche immagine di tracciato radar, gran parte del materiale incomprensibile ai più. Questa enorme mole di informazioni, ora interamente digitalizzate, non rende affatto accessibile la conoscenza di fatti a quanti vogliono informarsi. Soprattutto non consente una lettura univoca dell'evento, del quale ormai conosciamo tantissimi aspetti, tranne il più importante, la verità dei fatti. Ecco perché il museo è costretto, per la parte documentaria, ad affidarsi ad una serie di pezzi giornalistici, che testimoniano i dubbi, i sospetti, le riaperture dei processi. Una massa di informazioni che tradisce un vuoto forse ormai incolmabile. Com'è precipitato l'aereo? Chi ne è responsabile? Perché? Una delle poche certezze emerse, non senza grandi polemiche e resistenze, è proprio nella colpevolezza dello Stato italiano nel non aver saputo difendere il DC-9 da un episodio di guerra e nei numerosi depistaggi e reticenze che hanno portato la magistratura per anni a brancolare nel buio. Questo è il contenuto dell'ultima sentenza, anche se solo di primo grado. Forse l'unica parziale verità che conferma l'istruttore del giudice priore, terminata nel 99 senza processo in quanto ignoti gli autori della strage. Il museo stesso, nel portare avanti quest'unica lettura disponibile, è caduto nelle polemiche. Il volantino di presentazione è stato querelato, in quanto ritenuto diffamatorio nei confronti dell'aeronautica militare. Non c'è stato processo, ma l'estensore del volantino, uno storico, lo ha comunque corretto nella parte che accusava di tradimento i vertici dell'aeronautica, usando condizionale e la formula generica alcuni settori dello Stato. Ma verità storica e verità giudiziaria non sempre coincidono. E spesso la prima riesce a dirci molto di più della seconda, anche perché non è costretta a fermarsi davanti a cavilli e prescrizioni. Una spiegazione storica, almeno in questo caso, è riuscita a farsi strada per raccontarci uno scenario internazionale complesso, un rapporto ambiguo tra Italia e Libia, mal digerito dalla NATO e dagli Stati Uniti. All'epoca i ferri corti con Gheddafi per il presunto supporto al terrorismo palestinese. Quel che è certo è il tentativo di insabbiamento della battaglia che avvenne quella notte nei cieli. emerso grazie a indagini e processi mai giunti ad una sentenza definitiva. Davanti a questo vuoto di giustizia, cosa possiamo fare? Nuovi processi sono iniziati negli ultimi anni. Il nuovo governo libico è stato disponibile a collaborare, la NATO un po' meno. Forse in futuro potremo conoscere meglio i fatti di quella notte. Ma se così non sarà, resta l'impegno a non dimenticare, a non smettere di chiedere. E resta una verità, quella di uno Stato ambivalente, che con una mano cerca giustizia e con l'altra insabbia e depista. E con queste riflessioni, Van Loon si ferma per l'estate, ma continueremo a parlare di memoria su casos.org. Grazie per averci seguito e a presto.